San Giusto la campana. L'ora suona, l'ora suona, non lontana, che più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberar. Avrà voci, fiori e rose la marina, la campana perderà la nota mesta. San Giusto sventolar vedremo a festa il vessillo tricolor. Le ragazze